English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa puntata sarà dedicata a un'attrice amatissima in questo periodo. Ne parla il nostro English 24 in edicola e lo facciamo anche noi, intanto ascoltando insieme uno dei servizi proprio contenuti nella nostra rivista. Dal San Jose Mercury News, un servizio che parla di Keira Knightley. Keira Knightley is happy to reign as Hollywood's current queen of the costume drama. Knightley delivers her latest historical pageant with The Duchess, a saga of the 18th century equivalent of a tabloid celebrity who happens to be an ancestor of Princess Diana. The story of Georgiana Spencer holds notable parallels to the tragedy of Diana. Both were adored by the public. Both saw their fairy tale romances with men at the apex of Britain's aristocracy devolve into loveless marriages. Both sought escape and diversion with social causes, high-profile friendships, and dalliances that hurtled them into the center of scandals. Giulia, allora, Keira Knightley recentemente ha fatto molti film in costume, ma lei stessa, secondo questo servizio dal San Jose Mercury News, è una regina. Sì, ce la ricordiamo forse, almeno io me la ricordo di sicuro, nel Sognando Beckham, dove era tutt'altro che una regina, era una giovanissima giocatrice di calcio. Qui è decisamente diverso, è diventata una current queen of the costume drama, quindi è l'attuale current, naturalmente nel senso di in questo momento è la reginetta della regina, anzi non reginetta, dei drammi in costume, quindi dei film in costume. Si parla poi un po' di questa storia di questa duchessa che è una sorta di equivalente del XVIII secolo di storie ben più moderne che ha proprio vissuto il Regno Unito. Sì, quindi è un 18th century equivalent, quindi appunto l'equivalente nel secolo XVIII, gli inglesi lo dicono esattamente come noi, cioè XVIII, 18th century. E la cosa un po' curiosa è che questa Duchess happens to be an ancestor of Diana Spencer. To happen to be vuol dire guarda caso è proprio, no? Quindi I happen to be happy today. Stranamente oggi sono felice, stranamente perché magari fuori piove. E in questo senso invece, ma guarda un po', il personaggio interpretato da Keira Knightley è proprio un'antenata, un ancestor della Diana Spencer che tutti conosciamo e che sicuramente era questo tipo di regina un po' controversa. Both, cioè entrambe, avevano delle caratteristiche in comune e questo servizio un po' l'elenca. Sì, quindi the story holds notable parallels, quindi ci sono notevoli paralleli tra la storia di questa Duchess e Diana Spencer. Both adored. Entrambe furono adorate da un certo tipo di sudditi, da una parte dei loro sudditi. Both saw their fairy tale romances with men at the apex of British aristocracy devolve into loveless marriages. Questo è il destino un po' tragico di entrambe, da un punto di vista molto romantico, che queste fairy tale romances, quindi queste storie d'amore da favola, fairy tale è proprio la favola, with men at the apex of British aristocracy, con uomini che apex è proprio il vertice, quindi sappiamo come Diana Spencer aveva le sue storie, questa duchessa pure, eppure poi si sono trasformate, devolve into loveless marriages, tristissimo, matrimoni senza amore. Con qualche tentativo di scappare letteralmente per entrambe. Sì, they sought è il participio di seek, che è un verbo irregolare come la maggior parte dei verbi più usati, quindi to seek, sought, they sought escape and diversions, quindi cercarono delle vie di fuga, dei diversivi, diversion, per fuggire a questi tristi matrimoni in cui erano finite. Per chi volesse sapere qualcosa di più di The Duchess, vi possiamo dire che uscirà a breve in Italia, l'uscita è annunciata per il 23 dicembre. Aspettiamo quindi Keira in Italia, ma intanto abbiamo trovato due interviste che ha concesso al Festival di Toronto, dove ha presentato questo film, la prima a Tribute Movies. Sort of amazing, really. I mean, a huge sort of public persona, hugely politically influential, big fashion icon, and I think, yeah, a dreamer and a fantasist, very young, very naive, and kind of, I think the whole film is her journey into quite a harsh reality. You know, does one ever get used to wearing those tight, tight costumes no. and wigs? No, you don't. No, they're amazing, they look amazing, but I wouldn't necessarily ever want to wear them again. No, they're extraordinary, but they are very, very uncomfortable. The wigs were sort of made out of metal frames, so they were like bird cages, but covered in hair. So they were unbelievably heavy. I couldn't really hold my head up. And then, of course, you can't breathe. Giulia, la nostra Kira è molto inglese. Tra l'altro, per essere una ragazza giovane, parla anche in maniera particolarmente azzeccata. Sì, io credo che fare di interpretare tutti questi personaggi aristocratici le abbia probabilmente giovato, almeno così, da un punto di vista linguistico. Anche se c'è qualche cosa di affettato, forse appunto lo noterete anche voi. Una ragazza così giovane che parla un po' come una principessa, forse sembra che appunto non abbia smesso i panni dei personaggi che interpreta. In ogni caso, ci spiega che sicuramente la duchessa che interpreta è sort of amazing, really, I mean. Cioè l'ha trovata proprio, insomma, incredibile come personaggio, perché è una huge sort of public persona. Anche qui un grande uso di parole molto così roboanti. Insomma, questo dire public persona è, come ogni volta che gli inglesi usano una parola che viene dal latino, è sicuramente c'era un equivalente inglese più semplice. Comunque è per dire che il personaggio pubblico di questa duchessa era huge. Era grandissimo. E aveva anche un hugely political influence. Insomma, questo huge le piace sia come sostantivo, sì, che come avverbio. Le, ecco, piace proprio l'idea di aver interpretato qualcuno che aveva tutte queste caratteristiche grandi, grandi, grandi, perché huge vuol dire proprio enorme. Tra l'altro, però, una concessione alla modernità la fa la nostra Kira, perché dice era anche una big fashion icon, che è un'espressione questa invece molto moderna. Sì, perché poi noi pensiamo magari che la moda sia una cosa così che è nata forse con le riviste. In realtà chi ha visto Maria Antonietta di Sofia Coppola sicuramente se ne è reso conto, è sempre stato un po' così, soprattutto nell'aristocrazia. Arrivavano i sarti, gli scarpai e portavano le ultime creazioni, quindi lei all'epoca era una big fashion icon, un'icona della moda, come oggi non lo so, potrebbe essere Madonna per certi versi. Very young, very naive, quello che non è Madonna, cioè molto giovane, molto naive, quindi in un certo senso ingenua, no? Proprio alla francese. Sì, noi lo usiamo in generale solo per caratterizzare i quadri naif, oppure sì, a volte lo diciamo anche delle persone. Invece in inglese è scritto senza la F ma con una V e una E finale, è proprio in senso di ingenuo, quindi she was very young and very naive, insomma come il femminile proprio alla francese. La domanda che sorge spontanea per chi la intervista, ma anche per chi avesse semplicemente visto il trailer di questo film: come ha fatto lei a portare questi costumi pesantissimi, poverina? E quindi le chiedono appunto se she ever gets used to wearing. To get used to something vuol dire abituarsi a. Se gli si mette un verbo bisogna usare il gerundio, quindi ti sei mai abituata a indossare questi abiti, e che erano very tight, tight, tight vuol dire stretti, costumes and wigs, quindi sia i costumi che le parrucche erano sicuramente una sofferenza, come peraltro oggi a noi sembra strano perché la maggior parte dei nostri vestiti sono comodi, ma invece appunto fino a pochi anni fa per le donne vestirsi elegante era una sofferenza. E lei dice they are amazing, they look amazing, insomma a lei sono piaciuti veramente tanto, amazing, straordinari, le hanno colpito, però e poi usa una specie di eufemismo molto inglese, dice con un tono assolutamente neutro: but I wouldn't necessarily want to wear them ever again, ma non necessariamente desidererei indossarli ancora una volta, anzi ever again vuol dire in realtà proprio non credo che li vorrò mai più indossare. Io scommetto che la rivedremo in qualche film in costume, anche secondo me la rivedremo con queste wigs made out of metal frames, quindi frame con queste ossature, potremmo dire, no? Frame vuol dire anche cornice, però vuol dire che quindi la parrucca aveva sotto una struttura di metallo ed erano unbelievably heavy, incredibilmente pesanti. Una cosa che le impediva di tenere sulla testa addirittura di respirare, così dice. Sì, probabilmente poi i corpetti altrettanto stretti, anche perché Kira non è particolarmente dotata di petto, ecco, non è particolarmente pettoruta, e quindi probabilmente il corpetto per darle un pochino più di forme, quindi of course you can't breathe, quindi non riusciva a respirare. Beh, non potevano ritoccare il manifesto come è già successo, insomma lì dovevano utilizzare qualche altro accorgimento. Ma sentiamo un'altra intervista di Keira Knightley, sempre a proposito di questo film che vedremo questo mese in Italia, un'intervista rilasciata a Talking Pictures. She certainly pushed the boundaries, huge sort of public personality, and yet was stuck in this kind of very stifling marriage that she was having to navigate her way through, and was incredibly vulnerable and incredibly lonely a lot of the time. So it was a really interesting kind of mix of things. But a very progressive woman for that time. For that time, yeah, definitely. Yeah. I don't remember reading, and it's maybe my fault, but I don't remember reading of any women that were involved politically. No, in those times. I think, you know, they weren't, because it's quite extraordinary that she was sort of so politically influential because she didn't have the vote. So, you know. And she mentions that. Yeah, and she does mention that, you know. But I think there were, you know, there were certainly political hostesses for the Tories as well as for the Whigs. And mm-hmm. I know that there were others in that, you know, that group. But no, I mean, officially, they couldn't run for Parliament or do anything like that. Ecco, in questa intervista sottolinea proprio il suo aspetto di donna molto indipendente, di donna rivoluzionaria, appunto, di questa duchessa quasi una Lady Diana ante litteram. Sì, una delle cose che ha fatto, secondo Kira, è she pushed the boundaries. To push the boundaries, noi potremmo tradurlo con arrivare al limite, letteralmente è naturalmente spingersi là dove ci sono i confini. Quindi andò oltre i confini, no? Perché spinse quei confini, perciò cercò di andare oltre, di fare delle cose che fino a quel momento le donne sicuramente non erano tenute a fare, o meglio, non ci si aspettava che facessero. E questo sempre perché? Perché she had a huge personality, perché aveva questa personalità enorme. Beh, lo sappiamo che quando gli attori devono rilasciare molte interviste sullo stesso film, alla fine insomma finiscono un po' per ripetersi, è anche un po' naturale. Però qui utilizza un aggettivo che mi piace molto, questo matrimonio. Sì, prima era loveless e adesso è, quindi senza amore, adesso è invece stiffening. To stiffen è qualche cosa che sta stretto, ma anche... Che infastidisce, che costringe, e quindi appunto un matrimonio sostanzialmente infelice. Anche qui racconta il suo modo, il modo della duchessa di affrontare questo matrimonio infelice e di resistere. Quindi sappiamo che il divorzio, neanche a parlarne a quei tempi, e quindi che cosa le toccò fare, a differenza di Diana? Having to navigate her way through the marriage. Quindi ovviamente dovete trovare un modo per resistere, quindi to navigate through, in qualche modo navigare attraverso questa tempesta, potremmo dire, del suo matrimonio infelice. Lei la definisce una donna progressiva. Progressista per quel tempo? Sì, noi diciamo progressista, l'inglese è progressive, quindi non progressive come le lenti, questo è un false friend, quindi era per that time, per quel tempo, come diremmo noi in italiano, era una donna decisamente progressista, quindi avanti sui tempi. Beh, insomma, vorremmo saperne di più di questa duchessa, allora vi rimandiamo all'ascolto del servizio che vi abbiamo fatto sentire all'inizio, la versione completa è nel CD del nostro English 24. Il film uscirà il 23 di dicembre, lo abbiamo detto, invece il nostro tempo radiofonico per questa settimana si conclude qua. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.